parlavi di se stasera rimani qui. Non parleremo del più e del meno. Credo che non parleremo nemmeno. Baby, non fare finta che non lo sapevi, che questa storia durerà una sera. La nostra non sarà una storia seria. Fai la persona seria. Io non ho alibi validi. Non ho alibi validi. Non ho alibi validi. Non ho, no no. Non ho alibi validi. Non ce l'ho. Non so il tuo nome e dove abiti. So solo il colore dei tuoi abiti. E per rifarteli mi bastano due attimi. Fermo immagine. Fermo. Mi spingi al margine. Oltre. Sei bella, sei una modella, una ballerina. Meglio una brutta verità di una bella bugia. Non ho alibi validi. Non ho alibi validi. Non ho alibi validi. No, non ho alibi validi. Non ce l'ho. Tra poco posso prenderti, preparati. Hai detto che sei timida, ma il quarto drink vuoi portarmi a casa con te. Ok, devo ammettere che in mente ho sempre te. Non illudermi, non ho tempo da perdere. Non offenderti, ma domattina torno a casa in taxi e tornerà tutto come prima. Perché non ho alibi validi. Non ho alibi validi. No, no, no. No, io non ce l'ho. No, io non ce l'ho. Alibi validi. No, io non ce l'ho. No, io non ce l'ho. Alibi validi. No, io non ce l'ho. No, io non ce l'ho.